e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci qui, siamo tornate, la coppia più bella del mondo, ce lo diciamo noi, ma questa è una buona cosa. La modestia non è di queste parti. Buongiorno. Buongiorno, è giovedì, investiti informati, a scuola di risparmio, caccia le notizie sui mercati finanziari con un piccolo approfondimento oggi naturalmente per quello che riguarda le vicende bancarie italiane. Anche noi investiremo il nostro tempo per imparare tutto, ma proprio tutto, su come allenare e preservare il nostro olfatto, ma prima andiamo con la rassegna stampa di Cuore. Allora, una rassegna stampa in cui noi giochiamo in casa, siamo sempre in cerca di notizie, adesso le notizie sono qui. Infatti si sta svolgendo all'Auditorium del Sole 24 ore la Breast Cancer Conference, è una 2 giorni dedicata alla prevenzione, alla diagnosi e alla terapia del tumore della mammella. Ho catturato per noi il chairman della conferenza, il professor Paolo Veronesi, direttore della divisione di senologia chirurgica dell'OIEO, che gentilmente è salito. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Professore, è una conferenza che diventa maggiorenne, è giunta alla 18ª edizione e da quest'anno prende il nome del professor Umberto Veronesi, che l'ha pensata, ideata, organizzata, portata avanti quasi 20 anni fa. È una conferenza internazionale, quest'anno abbiamo ospiti da 48 paesi nel mondo, quindi una conferenza molto importante che vuole fare il punto del trattamento soprattutto locale, quindi chirurgico, radioterapico, ma anche della terapia medica e di tutte le novità in campo di prevenzione, genetica e diagnosi del carcinoma della mammella. Professor Veronesi, se un cancro al seno è diagnosticato in stadio iniziale e viene trattato in un centro specializzato, ha una guaribilità del 90% e può, come ha sottolineato lei in più occasioni, addirittura essere rimosso in un giorno senza neppure una notte di ricovero. Quindi se tutte le donne potessero conoscere, seguire le raccomandazioni di prevenzione e tutti gli ospedali potessero applicare le tecnologie e le metodiche d'avanguardia, questo tumore sarebbe molto più facile da vincere. Ma in questo momento particolare conta di più l'uomo o conta di più la tecnologia? Ma innanzitutto non in tutti gli ospedali devono esserci centri attrezzati, bisogna che questi siano concentrati solo in alcuni ospedali in modo da massimizzare le risorse in questi centri e dare le massime possibilità di guarigione. La tecnologia è importantissima, oggi possiamo fare delle diagnosi precocissime grazie alla diagnostica sempre più raffinata, parliamo di risonanza magnetica, parliamo di mammografia con tomosintesi, parliamo di ecografie con sonde ad alta frequenza, ma poi anche nel trattamento, pensiamo alla chirurgia, oggi parleremo di chirurgia robotica nel tumore della mammella, un'innovazione che ci consente di rimuovere completamente la ghiandola mammaria per malattia iniziale o anche solo per prevenzione attraverso una piccola incisione al cavo ascellare, quindi senza nessuna cicatrice visibile, rimozione della ghiandola e ricostruzione immediata. Oppure pensiamo alla qualità di vita, presenteremo i risultati di uno studio che utilizza un dispositivo per evitare la perdita di capelli nelle pazienti che fanno chemioterapia, un problema importantissimo, ovviamente parliamo di qualità di vita. Assolutamente, perché con la questo perdita dispositivo, dei capelli viene sentita assolutamente, molto. 3/4 delle donne non perdono i capelli in maniera significativa. Professor Veronesi, io la ringrazio per questa anticipazione e naturalmente l'aspettiamo presto qui per approfondire il tema. Adesso io lo so, lei è il chairman della conferenza, quindi è stato un piacere averla qua in studio e l'hanno potuta naturalmente vedere anche i nostri ascoltatori. La ringrazio, la lascio alla conferenza. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie, buon lavoro. E noi cambiamo argomento, perché prima di investire nel fare il nostro appuntamento alla scuola di risparmio, come anticipato, volevamo investire per imparare tutto, ma proprio tutto, sul nostro olfatto, un senso prezioso che ci fa gustare la vita. Infatti quello che noi percepiamo attraverso il naso arriva dritto al cervello e da lì parla, per così dire, direttamente al nostro cuore, perché è capace di riportarci alla memoria il passato e al tempo stesso suscitare delle impressioni che durano più a lungo, e proprio per questo vale la pena di riscoprire, educare e sviluppare questo senso, il nostro personal coach di oggi è il dottor Andrea Franzetti, niente di meno che primario di otorinolaringoiatria all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, che è tornato a trovarci. Buongiorno professore, dottore, grazie. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah, buongiorno a tutti. Allora, oggi con lei ci faremo tutto naso, come fa Bullo, no? Considerato che le ultime ricerche, l'ultima proprio in ordine di tempo è recentissima e porta la firma di un neuroscienziato di grande prestigio che ha studiato proprio l'olfatto, al pallino dell'olfatto, si chiama John McGann. Bene, lui ha portato all'attenzione della ricerca un fatto, e cioè che il nostro olfatto non ha nulla che invidiare a quello di animali, ad esempio come il cane, che da sempre sono stati considerati dotati di grande fiuto. Insomma, siamo in grado di distinguere, pensate, 10.000 odori diversi, ma non solo, noi, il nostro olfatto sarebbe in grado di identificarne circa un trilione. Quindi il nostro naso è davvero un olfattone, insomma, è un senso molto sviluppato, anche se noi tendiamo un po' ad addormentarlo e a trascurarlo. Dottor Franzetti. Certo, perché dell'olfatto noi pensiamo soltanto il naso, mentre invece il naso è la parte minore della via dell'olfatto, perché gli studi anche più recenti sono quelli che mettono in evidenza che la parte principale dell'olfatto sono i cosiddetti recettori olfattori, che sono in una parte del naso, che è proprio la volta del naso, e soprattutto la parte centrale, che si trova a livello del lobo frontale, cioè la parte di elaborazione del cosiddetto odore. Questi due punti sono i due fattori di studio maggiori che ci hanno permesso di evidenziare come noi dobbiamo immaginare, come se avessimo una serratura e una chiave. Mm. Nel senso che qualsiasi cosa che c'è nell'aria è come una chiave che va ad aprire una serratura che scatena una serie di sensazioni olfattorie nel nostro cervello. Noi possiamo decidere di usare tutte le chiavi, sì, i trilioni, sì, o possiamo decidere di usarne due. Certo. E dipende molto da come noi sviluppiamo il livello frontale nell'attenzione. Noi normalmente invece usiamo tantissimo l'udito, la vista. No? Un po' di meno il tatto, no? Ne siamo meno coscienti, e l'olfatto lo usiamo soltanto in alcuni momenti. E questi due momenti della vita in cui li usiamo in modo particolare solo quando abbiamo paura, cioè quando dobbiamo avvistare un pericolo, perché per esempio noi sentiamo l'odore di fumo a distanza di qualche chilometro, prima di sentire rumori o vedere. E questo è fondamentale. Gli animali lo usano tantissimo per l'allerta, certo, e soprattutto per il gusto. Perché sono i due momenti in cui invece siamo coscienti di usare l'olfatto. Allora, quindi non è solo il naso, ma è anche il naso, dottor Franzetti, perché per fare bene il proprio lavoro dobbiamo mettere il naso nelle condizioni di farlo. E allora direi di fare subito il primo esercizio di oggi. Porta l'indice della mano destra, sinistra se sei mancino, nel punto in cui il setto nasale si attacca alla fronte. Ecco, lì dove c'è una piccola fossetta. Adesso premi. La pressione deve essere decisa ma non dolorosa o fastidiosa. Mantieni la pressione in questo punto per 30 o 40 secondi. Dovresti avvertire un piacevole formicolio alle narici. A questo punto il tuo naso dovrebbe essersi liberato. Un pochino sì, dottor Franzetti. Sì, si libera perché c'è una reazione che si chiama reazione trigeminale. Perché noi lì andiamo a schiacciare una terminazione di questo nervo che ci fa sgonfiare i turbinati. Ecco lì il segreto. Per qualche secondo. Allora, intanto, qualche secondo, potete ripetere l'esercizio e ascoltare le informazioni sul traffico, e poi con il naso liberato tornate qui da noi, perché continuiamo a cacciare gli odori, i profumi. Mettiamo un po' alla prova il nostro olfatto. A tra poco. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta. Cuore e denari. Voglio il tuo profumo. Eccoci qua, torniamo insieme, torniamo al tema di oggi. In studio con noi, e lo dico per chi ci sta seguendo in diretta Facebook, il dottor Andrea Franzetti. Ci eravamo lasciati con un invito preciso: annusate e catturate nell'aria gli odori, i profumi, perché no, anche le puzze. E chiamatevi, perché oggi, chiamateci, perché oggi vi invitiamo a essere cronisti olfattivi. Allora, disegneremo insieme la mappa dei profumi, anche delle puzze d'Italia, ma mi piacerebbe che potessimo un po' confessare le nostre passioni olfattivi, perché gli odori buoni piacciono a tutti, ma ciascuno di noi, dottor Franzetti, ha un odore un po' strano, inconfessabile, nel cuore, nel naso, nel cervello. Allora, al nostro numero verde, ad esempio, potete confessarlo. C'è chi annusa il pennarello, chi trova abbastanza così piacevole anche l'odore della trielina oppure della vernice fresca, e invece chi è proprio classico, quindi pomarola, torta al cioccolato e quant'altro. Perché queste, perché anche gli odori strani ci catturano, dottor Franzetti? Perché l'olfatto non è come la vista, nel senso che il verde è il verde, il rosso è il rosso, il blu è il blu per tutti, tranne che per i daltonici, però quella è una, diciamo, è una deformazione fisiologica dell'occhio. Per l'olfatto è totalmente condizionato dal vissuto e condiziona a sua volta il vissuto. Ci sono degli odori che per tutti sono, diciamo così, irresistibili. Sì. Tipo l'odore della brioche, mm-hmm, appena sfornata quando si passa davanti a un bar. È fatto apposta. Difficile a livello resistere, commerciale. Certo. Ci sono alcune marche di moda che si abbinano a un profumo. Non faccio nomi, però basta passare davanti al negozio tale e si sente quel profumo. E poi noi, quando quel profumo lo sentiamo da un'altra parte, diciamo, ti rimanda, è il profumo di quella. Certo, perché no? È il grimaldello della memoria. Esattamente. Il profumo. E questi sono, diciamo, degli odori studiati apposta, dal punto di vista irresistibile. Poi ci sono degli odori soggettivi, che per alcuni sono puzze, per gli altri invece sono magari degli odori gradevoli. La benzina, la trielina, cioè, che dipendono molto anche dal vissuto della persona e sono molto condizionati dal vissuto e a loro volta condizionano il vissuto. E poi ci sono invece gli odori che possiamo definire sfiziosi, cioè sono quelli più personali, quelli che dicevi prima, cioè quelli che la persona ricerca e associa a una cosa che è positiva o negativa della sua vita e gliela fa rivivere continuamente tutte le volte che sente questo odore. Ecco, giochiamo anche sulle associazioni. Si dice sempre, tutte le volte che sento il profumo di torta di mele sento il profumo un po' della nonna, perché la abbiniamo. Poi non tutte le nonne preparano le torte di mele, ma ci sono delle situazioni. Per me, ad esempio, una cosa che mi rimane nel cuore è la salsa di pomodoro e la melanzana fritta, per quella per preparare la norma. Ecco, quello per me è il profumo della mia infanzia, mi fa sentire a casa. 800 24 00 24, raccontateci se e come funziona il vostro olfatto. Mi segnalava Deborah che in un sms un ascoltatore ci scrive che ha perso l'olfatto a causa di un incidente, vuole sapere se al momento ci sono delle terapie, delle possibilità, anche immagino un intervento magari chirurgico per rimetterlo nella condizione di annusare, catturare gli odori che abbiamo visto, da quanto lei ci ha detto, abbiamo sentito, non visto, hanno una parte così importante nella nostra vita, ma anche nel ricordo e nella elaborazione dei nostri pensieri e delle nostre scelte. Possiamo rispondere. Se ha picchiato la testa durante l'incidente, sicuramente è successo un fatto di questo tipo. Le cellule e i recettori olfattori passano come dei filuzzi attraverso una lamina ossea che è posta tra il cervello e il naso, che si chiama lamina cribra, che vuol dire proprio bucherellata. E quando uno ha un trauma cranico, questa lamina non fa nient'altro che muoversi in avanti e indietro velocemente e taglia questi filuzzi. Questi filuzzi interrotti non mandano più il messaggio olfattorio alla parte centrale del cervello. Se una misura eccessiva di questi filuzzi sono stati interrotti, purtroppo determinati odori, e quindi sia la iposmia o tutti gli odori, sia un'anosmia, non vengono più generati. Non esiste la possibilità in questo momento di rigenerare il tessuto nervoso, cioè i recettori, tranne che in una fase di studio già in atto con le cellule staminali, che sono anche presenti nella regione olfattoria propria della persona e che potrebbero in parte nel tempo riattivarsi, che potrebbero essere utilizzate in un futuro anche magari prossimo per rigenerare questi recettori, ma attualmente non li abbiamo a disposizione dal punto di vista clinico. Allora, lei ci aiuterà a capire, a fare una sorta di autotest del nostro olfatto. Intanto voglio leggervi tanti messaggi che mi stanno arrivando via WhatsApp per raccontare il profumo o l'odore che ci piace. Una volta, Davide deve essere un buon naso, perché ci scrive Davide da Venezia, una volta riusciva a distinguere le case editrici dall'odore dei libri. Un altro ascoltatore ci scrive: forse sarà il mio setto nasale notevolmente deviato, ma io apprezzo molto l'odore della benzina. Ci racconta invece un ascoltatore che tutti i giovedì mattine sente l'odore di fritto di pesce dato dal mercato che fanno settimanalmente nel mio paese. E poi un classico: l'erba delle campagne appena tagliate, specialmente nella bassa modenese in maggio e giugno, ci scrive Davide da Bassano. Allora continuate, diventate i nostri cronisti olfattivi, ma intanto dottor Franzetti ci aiuti a capire se il nostro olfatto funziona a dovere, perché in qualche modo noi facciamo sempre, come dico, di necessità virtù. Quando una funzione si perde o si progressivamente perde smalto, in qualche modo compensiamo, e fino a quando non ci rendiamo proprio conto che il danno è fatto, la situazione è cambiata radicalmente. Come possiamo capire se il nostro olfatto ha lo smalto di un tempo? Ma allora io farei due giochetti molto veloci. Sì. Il primo è vedere, annusare quelli che sono degli odori forti. Per esempio l'odore del caffè. Sì. Allora, l'odore del caffè è un odore che è facilmente percepibile. No? Basta sentire il profumo e magari dire: sento l'odore del caffè e provo ad annusare la cannella. Perché la cannella è un odore meno forte del caffè e ci dà una gradazione di attenzione olfattoria minore. Se io sento molto nettamente l'odore del caffè e meno l'odore di cannella, faccio fatica o non riesco a sentirlo dopo aver sentito l'odore del caffè, è come se nella gradazione minore, come se qualche chiave non entrasse nella serratura. Ma un altro gioco, secondo me ancora più fine sull'olfatto, è quando per esempio si va negli aeroporti o nelle profumerie, dove ci sono tutti i profumi a disposizione che si possono sentire sulle solite bastoncini o fettuccine di carta. Provare a prendere due o tre profumi, spruzzarli, annusarli e dire tra un profumo e l'altro almeno tre differenze che uno nota. Perché un profumo è l'altro, certo, però uno deve dire: questo è più dolce, questo è meno dolce, questo è meno dolce ancora, questo è più aspro, questo è meno aspro, questo è meno aspro, questo è più irritante, questo è meno irritante. Allora, intanto provatelo. Vedo che Deborah è abbastanza perplessa, spiegheremo tutto. 800 24 00 24, arriverà anche il domandone GR, poi di nuovo insieme. Cuore e denari. Annusate, annusate, annusate e chiamate l'800 24 00 24 in compagnia del dottor Andrea Franzetti. Cerchiamo di raccogliere tutte le informazioni per capire se il nostro olfatto funziona bene e soprattutto per proteggerlo. Parleremo anche dei nemici del nostro olfatto. A volte sono a casa, a volte sono dentro il naso, a volte sono abitudini che seguiamo, il nostro stile di vita a metterle in difficoltà. Dottor Franzetti, tante domande, ma prima il suo domandone. Il quizzettone viene apposta. Allora, devo dire che questa volta però è stato ispirato da Nicoletta, che sta diventando più brava di tutti a fare il quizzettone. Allora, la domanda è questa: quando nasce l'olfatto? 1. Prima risposta: quando il bambino è ancora nella pancia della mamma, anzi è uno dei primi sensi che si sviluppa. 2. Quando il bambino nasce, perché serve per mettere in rapporto il bambino con l'odore della mamma. 3. Si sviluppa man mano che il bambino cresce e man mano che incontra vari tipi di odori. 800 24 00 24, se volete intervenire e ricevere a casa un libro della libreria di Cuore e Denari. Allora, dottor Franzetti, abbiamo detto che ci sono delle condizioni che addormentano il nostro olfatto o cambiano la percezione degli odori. Insomma, diventa il nostro olfatto cambia, non è più quello di prima. E in alcuni casi il problema va proprio cercato in casa. Partiamo dalla nostra casa, perché? Certo, perché ci sono tantissime polveri oppure odori che possono irritare le cellule olfattorie. Mi è addirittura capitata una paziente che faceva in un'agenzia di pulizie che usava dei detersivi troppo, con degli odori troppo forti, che ha perso l'olfatto. Per cui bisogna stare attenti al tipo di irritazione che può dare sia le cose che usiamo in casa, sia l'ambiente, sia eventuali ventilazioni particolari, le temperature che non siano, che di non avere troppi sbalzi, per esempio in questo periodo dove si usa tantissimo l'aria condizionata. Rifate a casa il test caffè e cannella. Quello che poi un po' di cannella sul caffè è squisita, tra l'altro. Allora, a volte invece sono i comportamenti, il nostro stile di vita che possono addormentare un po' il nostro olfatto. Mi viene in mente, come primo, che l'abitudine al fumo, ad esempio. Certo. Dottore, i fumatori hanno un naso che un olfatto diverso da chi invece non fuma, oppure no? Chiunque introduce delle chiavi diverse nelle serrature dell'olfatto toglie la possibilità alle chiavi giuste di entrare. Quindi il fumo, come qualsiasi altra polvere o particella noi introduciamo in maniera metodica nel naso, va a chiudere queste serrature e quindi pian piano andiamo incontro sicuramente all'iposmia e a volte anche all'anosmia, cioè a non sentire gli odori. Potranno ritornare questi odori se noi smettiamo di fumare piuttosto che di usare determinate stimolazioni nasali? A volte sì e a volte no, perché dipende come questi recettori vengono stimolati o addirittura modificati. E in alcuni casi invece è proprio un problema di naso. Certo, perché il naso ha una sua fisiologia, quindi nel naso deve passare aria. Se l'aria non arriva in maniera adeguata nel naso, non va a contatto con i recettori. Per esempio, se uno ha una poliposi o un naso particolarmente congesto perché è un allergico importante, e quindi non c'è il contatto tra l'aria e il recettore e uno non sente l'odore. Restiamo nel naso per rispondere a Giovanni che ci ha mandato, sta seguendo la diretta Facebook, ci ha mandato il suo messaggio. In generale, ci scrive Giovanni, chi verrà operato ai turbinati per congestione cronica può rischiare la compromissione dell'olfatto? Turbinati, localizziamoli un... Allora, i turbinati sono dei palloncini che sono localizzati nel naso. Sui turbinati inferiori, che sono quelli che sono l'oggetto del trattamento dei turbinati, che può essere fatto in vario modo, ma in qualsiasi modo vengano trattati, non inficia mai l'olfatto. Allora, voglio leggervi il messaggio di Graziella. Sono di nuovo mamma da una settimana, perché ci permette di aprire un'altra parentesi. Sono di nuovo mamma da una settimana, le facciamo i nostri auguri. Ricordatevi, l'avrà sviluppato ora l'olfatto, oppure il bambino di Graziella ce l'aveva già nella pancia della mamma, o deve ancora completare questa funzione? Comunque, sono di nuovo mamma da una settimana, adoro l'odore del mio bambino. Invece l'odore della pelle di mio marito, che ho sempre adorato, adesso mi lascia indifferente. Quando tornerà ad attrarmi? Vi seguo sempre, siete bravissime, è molto carina. Allora, dottor Franzetti, questo è un esempio molto bello, perché noi siamo un po' degli animali, tra virgolette, eccolo, nel senso positivo del termine, nel senso che l'olfatto interferisce molto sia sull'attrazione sessuale che sull'attività sessuale, che è anche un meccanismo biologico ormonale che subentra nella mamma proprio in difesa del rapporto tra la mamma e il bambino. Nel tempo sicuramente questo meccanismo va a scomparire. Nell'animale l'olfatto è usato prevalentemente per due cose: uno, per l'attrazione sessuale, per l'accoppiamento eccetera; due, per tornare a casa. E quindi a casa il marito già torna, Graziella, andrà tutto a posto. Allora, chiudiamo con Amalia da Milano, prima di passare la linea a Deborah per Investire Informati, c'è già qua e lo potete vedere il suo ospite. Amalia, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, ma mi fa buongiorno. Molto piacere parlare con te. Grazie. Senti, io il mio problema è molto semplice, cioè soffro di anosmia perché ho una poliposi nasale che è stata operata 11 anni fa, e però gradatamente l'olfatto l'ho di nuovo perso. Quando faccio il cortisone, che mi hanno, diciamo, detto di fare, ritorna e poi però svanisce. Non e poi di nuovo si risveglia col cortisone e poi piomba di nuovo nell'etargo. Questa signora è una bellissima notizia, perché vuol dire che i suoi recettori olfattori funzionano. Evviva! Che probabilmente questi polipi ricrescono quando col cortisone lei li sgonfia, ritorna il contatto tra l'aria e il recettore, funzionano. Probabilmente bisognerebbe rivedere l'intervento, perché i polipi possono ricrescere. Certo. Allora, grazie dottor Franzetti. No, non ma abbiamo ancora dai, Pietro da Roma, non abbiamo matite. Ancora. Che dici? È carina. Pietro, dai. Buongiorno da Roma. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, io volevo portare una sensazione olfattiva particolare. Allora, io ho una moglie che è maestra. E quindi l'odore particolare dell'impregna di odore di matita. E quindi la riporta quale... un po' anche alla sua infanzia, infanzia, certo. L'odore delle matite che ci racconta Pietro, che certo, è proprio la memoria olfattoria. Ecco. La memoria olfattoria è una delle cose che ancora dall'inizio, da quando siamo piccoli, dalle prime esperienze che facciamo, rimane per tutta la vita e ci condiziona tantissimo. Allora, non mi segnalano dalla regia risposte per il domandone, ma io la domanda la so, dottor Franzetti, e poi la chiamerò per dire se era quella giusta. È un sms, mi dice Laura che è arrivato, ma io non l'ho letto. Forse lo becchiamo, va bene, guarderà. Dottor Franzetti, grazie. Prego. È tutto un'altra cosa, un altro profumo. Buona giornata. Grazie anche a voi. Andiamo adesso a sentire che aria si respira questa mattina sui mercati finanziari, ma direi più complessivamente in questo periodo. Stamattina abbiamo un quadro di nuovo negativo, ma che cosa abbiamo di interessante sotto i riflettori in questo momento? Diciamo che forse la settimana scorsa è stata particolarmente vivace in termini di notizie da monitorare con attenzione. In particolare abbiamo ancora concentrato il focus sulle attività delle banche centrali, con quella americana che ha alzato i tassi, quella del Giappone che ha mantenuto tutto fermo, la Banca d'Inghilterra che ha mantenuto pure lo status quo, ma un numero maggiore di membri delle board ha fatto capire che occorre invece ricominciare le strette sui tassi. Anche ieri è stato di nuovo ribadito questo concetto, con della sterlina che infatti ha ripreso quota sulle altre monete. Quindi comincia ad essere sempre di più condivisa l'idea di aumentare con prudenza i tassi, anche se con estrema appunto gradualità, perché l'impatto sui mercati di queste mosse non è da sottovalutare. Intanto, anche qui rischiamo di essere ripetitivi, ma questo la cronaca ci racconta, il mercato azionario americano corre e al momento tralascia la possibilità che il presidente Trump venga messo in stato di impeachment. L'Europa si muove a braccetto con le vicende politiche, brinda alla stabilità garantita dal risultato elettorale francese in vista del prossimo importante test, che è quello tedesco del 23 settembre. E in Italia che succede? Fra una bagarre politica ed un'altra decollano i piani individuali di risparmio, e noi ci domandiamo che estate sarà per i mercati. Ecco che cosa propone questa settimana la rubrica del giovedì. Investire informati. È tornato a trovarci Andrea Guazzi, responsabile della divisione Wealth Management di Banca Mediolanum. Ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno. Grazie dell'invito e buongiorno a tutti. Eccoci qua, naturalmente microfoni aperti come sempre ai nostri ascoltatori all'800240024. Se volete scriveteci al 349-238-6666. Ne approfitto anche per ricordare che dopo le 11.30, dopo il collegamento, dopo l'aggiornamento sull'andamento della giornata di borsa, faremo un collegamento molto rapido anche con Luca Davi del Sole 24 Ore, che ci racconterà il giorno dopo questa decisione del Consiglio di Amministrazione di Banca Intesa San Paolo di acquistare per un euro le attività appunto buone di Veneto Banca Popolare di Vicenza. In realtà è una delibera del Consiglio di Amministrazione che ha molti condizionamenti, molti requisiti da soddisfare. L'amministratore delegato di Intesa San Paolo Messina ha detto: noi siamo intenzionati a portare avanti questa operazione, ma anche lo Stato deve darci tutta una serie di garanzie, di requisiti legislativi. Poi ne parleremo appunto con Luca Davi più avanti. Intanto Guazzi ci ha portato la sua bella sfera di cristallo da cui leggere le previsioni per l'estate 2017 dei mercati finanziari. Naturalmente scherziamo, perché non ci piace più tanto fare delle previsioni che poi magari arriva un fatto a sconfessare e quindi qualche volta compromette anche un po' la reputazione, no, di chi li rilascia questi Outlook, perché così si chiamano in gergo finanziario. Detto questo, però, insomma, qualche idea magari su quello che potrebbe essere il tema di mercato di questa estate imminente, partita ieri, per la verità, potreste già averla, ce l'avete già, poi magari andiamo anche ai fattori di rischio. Intanto, che cosa ci dobbiamo aspettare? Beh, abbiamo parlato prima proprio degli interventi recentissimi delle banche centrali, anzi della banca centrale, perché poi l'unico intervento è stato quello degli Stati Uniti. È un intervento che di fatto era atteso, che probabilmente porterà a un luglio, dove ci sarà un altro intervento a fine mese sempre dell'FOMC, che probabilmente non lascerà particolari novità rispetto a quanto è già accaduto. È il braccio operativo della Banca Centrale Americana, sì, FOMC, che sì. Non cambia in questo momento la politica già annunciata sia dalla Banca Centrale Americana che da quella europea, dove alla fine ci sono degli scenari complessivamente relativamente positivi per i mercati finanziari, dove abbiamo un miglioramento della crescita globale e un'inflazione contenuta, e proprio questo dato di inflazione contenuta non porta a quelle attese che forse qualcuno aveva di forte incremento dei tassi. Quindi uno scenario che vede delle borse sicuramente toniche, ma che non vede in questo momento degli elementi di negatività percepibili nel breve periodo. Certo, ha toccato un tema importante, che è quello dell'inflazione, che ogni tanto qualcuno alza il dito e dice in realtà dobbiamo cominciare un po' a preoccuparci in prospettiva di queste piccole fiammatine momentanee che si registrano, poi in realtà vediamo quello che succede in questi giorni sul petrolio e probabilmente vedremo un ridimensionamento della ripresa dei prezzi. Senta, una curiosità, dottor Guazzi, di che cosa si occupa il responsabile del wealth management di una banca? Grazie della domanda, perché è un tema nuovo per tutto il mercato italiano, ma sicuramente interessante. Il wealth management, per essere molto chiaro e veloce, è l'evoluzione del private banking, cioè la gestione del cliente importante che ha grossi patrimoni finanziari visti da un'ottica a 360 gradi, direi una visione olistica, quindi dei servizi complessivi, patrimoniali, fiscali, finanziari, non finanziari, che sono mirati sul target di clientela. Per fare un esempio, la maggior parte dei nostri clienti sono ovviamente imprenditori, professionisti, manager di alto livello, e quindi questi signori hanno delle esigenze che sono la parte straordinaria della finanza aziendale, piuttosto che le operazioni di sviluppo, la gestione della governance aziendale, l'ottimizzazione fiscale, che ha un valore assolutamente economico, totalmente compliant con le normative in vigore, e quindi andare a creare non più un rapporto in cui la banca, seppur in maniera qualitativa, offre un prodotto, ma offre una partnership, quindi un servizio che va a prendere tutte le esigenze di un gruppo familiare, e che poi è un po' anche il simbolo del nostro, che è questo cerchio dove all'interno, al posto sì, della esatto. M, potremmo mettere il cliente. Senta, ci racconta ancora delle buone notizie il risparmio degli italiani, insomma, che tipo di osservatorio ci può portare in questa giornata in cui naturalmente guardiamo con attenzione un po' quelle che sono le esigenze delle famiglie, strette ancora un po' fra qualche colpo di coda della crisi economica, un mercato del lavoro che ha ancora tutte le sue difficoltà, anche se diciamo che in termini percentuali ogni tanto le statistiche ci raccontano di una situazione di recupero. Detto questo, però, le famiglie risparmiano ancora con fatica, ce la fanno. Che cosa potete dirci? Ma allora, i dati ufficiali dell'Italia ci rendono giustizia, nel senso che l'Italia è ed è sempre stato anche storicamente il paese, addirittura al mondo, col più alto tasso di risparmio. Ci seguono a ruota i giapponesi e molto in fondo in classifica ci sono, come è noto, gli americani. Oggi abbiamo una crescita che comincia a diventare allargata a livello mondiale, anche se non qualcuno considera tenue, però si parla sempre di un punto e due per quanto riguarda gli Stati Uniti, e un tasso di crescita che va, secondo le stime, da un punto e mezzo, un punto e sette, a un punto e tre, poi ci sono le varie revisioni dell'Europa. Questa crescita è in America considerata quasi in piena occupazione, perché c'è un tasso di disoccupazione tra il 4 e 4,5%, 4,3 mi sembra sia l'ultimo dato ufficiale. In Europa abbiamo un po' più di difficoltà, in Italia ancora più difficoltà, però è anche vero che questa crescita e occupazione, soprattutto in America, non genera inflazione. Siamo in un paradigma forse nuovo, forse siamo all'interno di una nuova rivoluzione tecnologico-industriale, e storicamente chiunque all'interno di un grande cambiamento se ne accorge in maniera molto debole, perché i segnali a volte sono deboli e diventano forti quando ormai la rivoluzione si è completata. Sicuramente la tecnologia e il digitale aumentano la produttività, e quindi questa produttività può portare a cambiamenti di scenario anche futuri, non sempre negativi, perché si potrebbe pensare di ritornare a produrre o rifare certe cose anche in Italia o nei paesi europei, e sicuramente cambiano anche le economie e le strategie dei paesi emergenti, tutta la politica di medio-lungo termine, perché in Cina esiste solo politica di medio-lungo termine, sta cambiando la traiettoria dei consumi dall'estero 100% a consumi interni, e a un'economia interna ormai da decenni. Quindi sono dei temi veramente nuovi, globali, ma soprattutto che hanno una risposta diversa dal punto di vista territoriale, non dico del singolo paese, ma del macrosistema. Certo. Senta, quali sono i fattori di rischio che potrebbero non far andare in ferie tranquilli i gestori, gli investitori professionali, i professionisti del risparmio e dei mercati finanziari? No, perché in questi giorni, per esempio, abbiamo purtroppo dovuto raccontare dal punto di vista della cronaca di questi attentati, di questi fatti terroristici che ancora sembrano episodi isolati su Londra, in Francia. Abbiamo visto ieri il caso di Bruxelles, che al momento, con il solito cinismo, non sembrano turbare la borsa. Vorrei vedere però quanto potrà durare anche questa apparente tranquillità rispetto a tutto questo. Poi ci sono naturalmente le schermaglie politiche europee, dati macro. Lei dice fondamentalmente abbiamo un sentiero di crescita globale intrapreso, ma ogni tanto c'è qualche area emergente che qualche piccolo problema lo dà. Ma insomma, i fattori di rischio che comunque tenete in considerazione, anche se non è detto che debbano per forza esplodere e diventare proprio fattori di disturbo del mercato. Ma non io, ma i miei colleghi gestori, quindi i gestori professionali di fondi comuni e di OICR, tutti i giorni analizzano in maniera veloce, sia prospettica che giornaliera, tutti i fattori di rischio e cercano di prenderne beneficio o di prenderne attenzione. Quindi io già direi che una volta che si utilizzano i fondi comuni, si utilizza il risparmio gestito, viva Dio, deleghiamo un po' a questi signori che lo fanno di mestiere l'analisi di tutte queste complicatissime interrelazioni di tutti gli elementi che abbiamo detto. Ci auguriamo tra l'altro che gli attentati finiscono, e comunque sembrano casi isolati, abbiamo comunque dati positivi per quanto riguarda la prosecuzione della situazione siriana piuttosto che verso l'ISIS, e quindi a livello macro da quel punto di vista non c'è una novità che in questo momento può turbare i mercati. Dal punto di vista delle schermaglie politiche europee, sicuramente la situazione francese ha portato serenità nelle aspettative che magari non erano perfettamente allineate, questa serenità di qualche mese fa sulle elezioni francesi, sul discorso europeo, ma anche ha portato un po' di serenità sull'outlook, su quello che succederà in Germania a fine anno, perché ci sarà un'elezione anche in Germania. Sì. Anche qui il consensus sulla Merkel e sul comunque il governo attuale è molto positivo, per cui torniamo alle sfere di cristallo. Chi con la sfera di cristallo ambiva a dare delle indicazioni, mi ricordo ottobre-novembre sulla vittoria della Clinton, su Trump che vincendo le elezioni avrebbe fatto crollare il mercato, non si sono mai verificate. Quindi la cerchiamo da 30 anni questa sfera di cristallo, ma forse è meglio che stiamo sereni, affidiamo dei gestori professionali i nostri risparmi. Tra l'altro già tra due giorni celebriamo l'anniversario del referendum di Brexit, qua il tempo veramente veramente vola. Infatti sono le 11.30, devo andare a raccontarvi cosa succede in borsa questa mattina. Ricordo anche che potete intervenire all'800 24 00 24, se volete. Naturalmente ci sentiamo tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Ritornati in diretta, oggi è giovedì, Investire Informati con Andrea Guazzi, il nostro ospite di oggi, responsabile della divisione Wealth Management di Banca Mediolanum. Ma avevamo promesso ai nostri ascoltatori, soprattutto quelli che ancora non ci hanno capito molto, di fare un piccolo collegamento di chiarimento per la questione del momento, la questione bancaria. Intesa San Paolo compra per un euro, la banalizziamo all'estremo naturalmente, le banche venete a rischio bail-in, Pop Vicenza e Veneto Banca. Luca Davide, il Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti. Ovviamente un CDA lampo in cui ieri l'amministratore delegato di Intesa San Paolo ha preannunciato appunto questa iniziativa che è condizionata naturalmente a molti fattori, non ultimo, forse questo è anche il più importante, ad una precisa cornice legislativa che lui ha chiesto per poter portare avanti questa operazione. Non ha nessuna intenzione di portarsi via da queste banche gli asset problematici, ma ovviamente vuole solo le attività sane. Detto questo, è una vicenda dalla quale probabilmente continueremo ancora a parlare almeno per un anno, ma abbiamo già delle notizie da dare, Luca, a azionisti, obbligazionisti e correntisti delle due banche venete, oggetto del possibile salvataggio e acquisto da parte di Intesa San Paolo? Sì, diciamo che l'operazione ovviamente siamo ancora alle fasi iniziali, nel senso che ieri c'è stata un'offerta che è subordinata a una serie, come dicevi giustamente te, di paletti. Siamo in attesa che ci sia anzitutto un decreto che autorizzi l'operazione, dopodiché ci saranno i vari iter autorizzativi da parte dell'autorità di vigilanza, BCE, Single Resolution Board e così via. Bene, una volta che tutta l'operazione avrà i crismi ritenuti giusti e in particolare i paletti indicati da Intesa sono rispetto del fatto che non sia intaccato il problema al patrimonio, che il flusso cedolare rimanga intatto e che le banche vengano ripulite, beh, a quel punto prenderà forma quella che di fatto è una liquidazione ordinata, perché così prevedono oggi le regole europee, che in Italia prende la forma della liquidazione coatta amministrativa e che di fatto si trasformerà in una cessione della parte buona appunto delle due banche venete a Intesa San Paolo, che è l'unica in questo momento che ha presentato un'offerta. E la cattiva chi andrà secondo te? La cattiva, quella che si chiama Bad Bank, è di fatto verrà ricapitalizzata dallo Stato italiano, che dovrà mettere le risorse ad oggi stimate attorno a 5-6 miliardi, e ovviamente in parte di questo capitale dovrà arrivare dagli azionisti delle due banche, che si vedrebbero sostanzialmente azzerati, ecco, e dai detentori di bond subordinati. Qua è importante fare una distinzione, Deborah, tra i detentori istituzionali, quindi grandi fondi di investimento e così via, che si vedrebbero del tutto azzerati appunto nel loro investimento, mentre per i piccoli investitori, piccoli risparmiatori retail che fossero stati soggetti a una vendita fraudolenta, beh, per loro si starebbe studiando un meccanismo di ristoro. Benissimo. Questo è l'impatto, diciamo, ad oggi previsto per queste Perfetto. Due categorie. E questo è quello che ci interessava sapere, quindi quando avremo notizie soprattutto su questa parte, che è quella che ci interessa monitorare qui a Cuore e Denari, naturalmente torneremo nel dettaglio a dare tutte le informazioni ai nostri ascoltatori, risparmiatori, piccoli risparmiatori. Luca, grazie per essere stato con noi, sei tu naturalmente quello che ci deve tenere al corrente di tutte le novità. Lo faremo, grazie a voi. Grazie Luca, a presto. Noi torniamo sui macro temi di risparmio appunto con Andrea Guazzi, Banca Mediolanum. Allora, tra le soluzioni di sistema per il sistema bancario, dottor Guazzi, e le bagarre politiche di ogni ordine e grado che vediamo ogni giorno e che leggiamo dalle cronache politiche dei nostri giornali, c'è un altro grande tema che riguarda il risparmio italiano e che sta andando avanti proprio veramente con come un ariete, ed è l'accelerata fortissima che sta registrando la raccolta del sistema PIR, i piani individuali appunto di risparmio, introdotti con la legge di bilancio 2017, con l'obiettivo, abbiamo dato questa definizione tante volte, di canalizzare il risparmio degli italiani verso investimenti produttivi di lungo termine, nella fattispecie aziende italiane. E i risparmiatori che cosa hanno in cambio rispetto a questo? Hanno questo discreto vantaggio fiscale, perché beneficiano appunto dell'esenzione delle imposte e dei proventi derivanti da questi investimenti, a patto che mantengano l'investimento 5 anni. E questo è l'ABC del PIR. Allora, tra l'altro ieri ho chiamato a suggestioni perché volevo capire se potevano darmi dei dati aggiornati rispetto alla raccolta fino a questo momento, perché ce l'abbiamo solo fino a fine marzo, ma mi hanno spiegato che non mi possono dare dati aggiornati perché siete voi banche che state facendo raccolta a doverli trasmettere a loro entro fine giugno, dopodiché loro avranno il quadro completo e il quadro del trimestre che si conclude a giugno lo avremo solo a settembre. Quindi dottor Guazzi dati mi deve tecnici. Portare solamente i dati che riguardano voi, sì. Però mi pare che la raccolta stia procedendo... Sì, completo, mi permetto di completare l'informazione che hai dato, che è precisa. Sono i piani di risparmio derivano da una normativa di dicembre 2017 che dà 2016, perdonatemi, che dà sostanzialmente l'agevolazione fiscale, quindi il mancato pagamento del 26% sul capital gain se l'investimento dura almeno 5 anni, fino a un massimo di 30.000 euro all'anno, certo. Quindi un minimo di 150.000 euro, si può fare fino a un massimo massimo di, quindi ognuno secondo anche le sue disponibilità, però un massimo di 30.000, e sono anche esenti dalle imposte di successione, che è un altro dato particolarmente certo. importante. Noi abbiamo creduto da subito a questo strumento, abbiamo nello specifico due prodotti peer compliant, perché devono avere delle determinate caratteristiche, e la nostra raccolta, l'abbiamo dichiarato pubblicamente, ha superato 1.200.000.000, quindi ci vede oggi sicuramente come leader in questo settore, e con forte anche riconoscimento da parte dei nostri clienti su tutto quello che sarà l'investimento. Che cosa viene particolarmente apprezzato di questa idea di investire nel sistema Italia, sul mercato domestico? Lo sappiamo che agli italiani piace investire in Italia, basti vedere quanto sono affezionati ancora al titolo di Stato, pur nei rendimenti negativi che questo garantisce. E quindi si sta spostando magari dal mercato obbligazionario a quello azionario pur di rimanere in Italia? Ma dunque, la genialità della normativa sicuramente riguarda le agevolazioni fiscali, perché comunque sono delle agevolazioni fiscali non di poco conto, quindi né le imposte di successione né il capital gain, quindi questo è un tema interessante. Il PIR può investire, deve investire una parte nelle piccole e medie aziende, e noi siamo, lo diciamo sempre, poi non lo facciamo mai, siamo i più grossi esponenti mondiali di qualità e di imprenditorialità nelle piccole e medie aziende. È un nostro vantaggio da un punto di vista, dall'altro punto di vista abbiamo meno grandi aziende a livello internazionale, che forse è un problema, ma sicuramente andiamo a investire nel tessuto sano, produttivo, efficace ed efficiente che ci ha sempre distinto nel mondo. Per cui sicuramente è un tema più che nazionalista, ma proprio anche di interesse di investimento. Noi abbiamo visto anche delle proiezioni di operazioni simili, non si chiamavano PIR, ma si chiamavano in modo diverso, PEA in Francia, ISA in UK, TFSA in Canada, che sono state delle agevolazioni sugli investimenti diciamo privati nelle aziende quotate, che hanno portato dei boom fortissimi di quotazioni, di qualità che è entrata sul mercato. Anche qui abbiamo, ricordiamoci sempre, un gestore che è in grado di scegliere, di decidere qual è l'azienda più qualitativa, meno qualitativa, quella che è cresciuta di prezzo che deve essere venduta e quella che deve essere trattenuta. Quindi la vera novità è che siamo all'interno di un percorso di grande stimolo economico, ma anche macroeconomico, e soprattutto anche un investimento che può avere delle potenzialità importanti nell'ambito di una corretta diversificazione. Noi abbiamo capito, insomma, che molte delle grandi SGR italiane ci credono fermamente e stanno spingendo appunto i propri clienti, i propri risparmiatori su questa strada. Dall'altra parte c'è anche tutta la categoria, come lei sa bene, dei detrattori di questi strumenti di risparmio, dei detrattori, di quelli che non sono convinti, diciamo, fino in fondo, perché poi il detrattore al 100% magari non c'è. E qualcuno dice: intanto stanno generando una bolla negli indici di borsa di riferimento un po' esagerata. Io faccio qualche esempio, poi lei mi dice se la pensa nello stesso modo o meno. L'indice più sensibile di tutti alla crescita dei PIR è il FTSE Italia Star, che è quello che raccoglie le imprese con capitalizzazione compresa fra i 40 milioni e 1 miliardo di euro. In 6 mesi questo indice ha guadagnato il 32%. Segue il FTSE Italia Mid Cap, che è composto dalle prime 60 società per capitalizzazione che non appartengono all'indice FTSE MIB, il più importante. Anche queste società sono molto appetibili per i PIR. In 6 mesi questo indice ha guadagnato il 27,5%. Poi c'è il FTSE AIM Italia, che è l'indice delle azioni quotate sul mercato rivolto alle piccole e medie imprese italiane con alto potenziale di crescita. Anche questo continua peraltro ad avere società nuove che si quotano e cresce moltissimo. Bolla o non bolla? I numeri parlano chiaro, più 30% dall'inizio dell'anno non sono proprio prestazioni da non considerare molto sostenute. E questo è colpa / merito dei PIR. Ma io farei un'analisi un po' più allargata. Innanzitutto l'indice Star italiano è sempre andato meglio dell'indice borsistico generale, diciamo conosciuto. Tutto bancocentrico, sappiamo, ecco, anche questo è per uno dei motivi, ragioni. Ma nel corso degli anni, quindi non abbiamo scoperto lì un effetto PIR, non lo vediamo. Poi abbiamo un altro tema che sicuramente oggi abbiamo 81 aziende circa quotate sull'AIM e ce ne saranno sempre di più. Secondariamente il PIR è un contenitore fiscale, è un fondo, ma sostanzialmente il gestore ha la possibilità di investire almeno il 70% in aziende italiane, quindi comunque è un 30% di possibilità di diversificazione, e nell'ambito di questo 70% ha un 30% che deve investire nelle cosiddette medie e piccole imprese, cioè quelle non all'interno dell'indice principale di borsa del FIB, del FTSE, per cui non diciamo i grossi titoli, ma dallo Star, come dicevi tu, in giù. Quindi oggi un gestore, e ripeto, non è che compriamo singoli titoli, titoli o voglio dire troviamo un rischio sul singolo nominativo dove dobbiamo avere una normale attenzione, ma questo vale per tutti i mercati e per tutti gli indici, ma il gestore ha tutte le possibilità di investire e di avere tutta la diversificazione possibile, certo, nell'investimento fatto. Lei è andato a controllare l'attività dei suoi gestori, va a vedere che aziende mettono dentro i vostri prodotti, no? Tanto per capire anche come funziona il dietro le quinte dell'attività di... Sì, io non sono i miei gestori, sono i gestori dell'SGR che sono totalmente separati dall'attività che facciamo noi di Wealth Management, e quindi io non so oggi quello che stanno facendo nel quello... caso in cui un suo cliente glielo chiedesse giusto per essere chiari, allora lato SGR i nostri investitori comprano il fondo e quindi i nostri gestori rispondono ai nostri investitori. Il gestore di tutti i fondi, compreso quelli PIR, ha una sola mantra, che è quello di fare l'interesse del sottoscrittore. Noi che siamo Wealth, che invece aiutiamo le aziende, i clienti a cercare un'allocazione corretta dei propri risparmi, ma anche a gestire questo effetto PIR lato eventualmente quotazioni in borsa, piuttosto che lavoriamo in maniera totalmente separata e con obiettivi completamente diversi. Quindi il gestore quindi è totalmente... per sua curiosità personale? No, è assolutamente libero, c'è una normativa ben specifica che deve dividere le due cose, e il gestore non solo è così, ma deve rimanere sempre e costantemente libero di investire, di fare quello che vuole, e questo toglie l'ansia a chiunque parla di bolle, perché il gestore, giustamente, se qualche titolo è salito avrà il piacere di vendere e di comprare qualche titolo che è sottoperformante, che ha sottoperformato, per cui sarei molto sereno nella capacità dei nostri gestori, nostri e di tutti quelli che sono sul mercato. Ci fermiamo, c'è il traffico, a tra poco. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Cuore e Denari. Allora, il domandone c'è anche stamattina, non c'è solamente la questione dell'olfatto, nella pancia, nella non pancia, che tra l'altro abbiamo lasciato questa curiosità anche, no, Nicoletta, ai nostri ascoltatori. No, ma la svegliamo, perché sono tantissimi i nostri ascoltatori che hanno risposto, quindi... Allora, per quello che riguarda il tema di risparmio, vi chiediamo, se siete stati attenti a quello che abbiamo detto poco fa, di segnalare al nostro numero verde i nomi di altri indici di Piazza Affari, non ve li chiedo tutti. E indici cosiddetti minori, tra virgolette, quelli che raccolgono le società a minore capitalizzazione sulle quali i PIR hanno la possibilità di investire. Vediamo chi ne conosce di più. 800 24 0024 il numero verde a cui potete naturalmente rispondere. Con noi questa mattina per l'ultima parte di Investire Informatici è Andrea Guazzi, responsabile della divisione Wealth Management di Banca Mediolanum. Si auspicava, dottor Guazzi, anche un altro effetto PIR, no? Quello di indurre le aziende italiane, che non amano tanto fare ricorso al mercato dei capitali, a quotarsi in borsa. In realtà ne abbiamo quasi una storia al giorno a Piazza Affari, proprio soprattutto che puntano su questi piccoli segmenti, ma non abbiamo avuto, come dire, proprio la corsa a farlo. Questo è un po' determinato da questo atteggiamento un po' molto prudente degli imprenditori italiani, che non amano avere anche questi appuntamenti ricorrenti con la comunità finanziaria, non amano comunicare, preferiscono far da sé, magari mettere soldi in aziende e proseguire le loro strategie di sviluppo in questo modo. Lei questo tema come lo vede? Ma questo mi fa molto piacere questa domanda, perché è quello che sto facendo più volentieri ultimamente in giro per tutta Italia. Certamente è cambiato il clima e il quadro. Grazie anche a questa normativa l'imprenditore comincia a guardare oltre, e questa è una cosa molto positiva, non solo in termini di diversificazione delle fonti finanziarie. Noi sappiamo che abbiamo un record che in Europa è considerato negativo, cioè che le nostre imprese si finanziano per 80-90% solo con le banche, e spesso purtroppo finanziano con debito circolante anche operazione di medio e lungo termine. All'estero non è così, tantomeno in Germania, che siamo tra il 30 e il 40%. Quindi un po' più di cultura finanziaria e di alternativa di fonti di finanziamento a medio e lungo termine, che sono le azioni, cioè la quotazione, ma anche le obbligazioni, i mini bond, è cosa buona e giusta. Gli imprenditori stanno cambiando completamente traiettoria. Oggi non vediamo o vedremo delle operazioni straordinarie, quindi delle quotazioni, delle emissioni obbligazionarie. Le emissioni obbligazionarie li vedono i gestori, non li vede, perché solitamente sono fatti per investitori professionali, ce ne sono tante, stanno aumentando. Per quotarsi ci vuole un tempo tecnico di qualche mese, per cui vedremo nel corso degli anni, abbiamo da 5 anni in avanti, riteniamo che ci può veramente generare un boom importante, quindi probabilmente in una prossima prevista fra un anno e mezzo, vedremo molti più attori sul mercato, molti più gioielli della nostra piccola e media impresa che saranno quotati. Questo è quello che ci auguriamo e che è quello che con la divisione Wealth Management noi facciamo, partendo sempre dall'imprenditore con dei partner super qualificati che sono nostri partner esterni e che possono fare queste operazioni. Il quadro cambierà in maniera importante. La scommessa che è stata fatta con questa normativa probabilmente è proprio questa, cioè quella di ampliare completamente la visione finanziaria dell'imprenditore che oggi finalmente, avendo questa opportunità, può comprare il concorrente, può espandersi, può dare carta quotata a un concorrente con un'acquisizione, non solamente con debito bancario, può essere più importante, più conosciuto a livello internazionale, può risolvere i temi di governance, può risolvere i temi di passaggio generazionale, perché dando agli eredi delle quote azionarie quotate tu risolvi tantissime cose. Certo. È un paradigma che cambia, ma direi una grandissima opportunità per il sistema paese. È un bellissimo dibattito anche questo. Intanto c'è un ascoltatore che al numero verde chiedeva se esistono degli ETF che replicano i PIR. Allora, oggi non abbiamo tempo di parlarne, neanche il dottor Guazzi è l'interlocutore giusto per farlo. Detto ciò, non si erano neanche ancora completamente strutturati i PIR, almeno per i primi che sono partiti, che già erano nati i replicanti. Questo era già successo tra marzo e aprile, per cui sì, ce ne sono già, e per cui potete sicuramente informarvi, non molti, ma in realtà qualcuno è già partito, per cui questo è la risposta. Allora, vedo anche degli ascoltatori pronti a rispondere al domandone. Ah sì, tra l'altro era Paolo da Macerata, gli ho già risposto. Marco, direi che magari possiamo fare una risposta e confezionarla appunto a parte in privato, comunque non sono molte le aziende che ne hanno prodotti. Paolo, ah sì no, Paolo da Macerata non era allora quello sugli ETF, scusate, stamattina sto andando in tilt. Paolo, benvenuto. Buongiorno. La mia domanda consiste in questo: volevo sapere se ci sono dei PIR che, oltre a permettere il fatto di non pagare il capital gain, ma permettono anche di accedere alla detrazione fiscale del 30% per investimenti in startup innovative. Paolo, qua veramente siamo... Io sono impreparata, Guazzi lei ne ma, sa. Allora, provo a rispondere. Il PIR è in questo caso specificatamente ha queste le caratteristiche che abbiamo detto. È uno strumento finanziario che uno può comprare ove la banca lo avesse in sottoscrizione. Tra l'altro il PIR, non l'ho detto prima, si può fare solo in una banca, per cui è molto importante quello che stiamo facendo proprio per questo motivo. Non lo puoi fare in più banche, su più conti correnti. Discorso diverso è tutto il lavoro dei fondi di private equity e di tutti gli investimenti che possono fare con finanziamenti agevolati o normative agevolate e che riguardano obiettivamente anche le start-up. Sono due cose diverse. Diciamo che il private equity può intervenire utilizzando le normative che abbiamo detto, il PIR alle caratteristiche spiegate precedentemente. Allora, Manuel da Roma invece è pronta a rispondere al nostro domandone di questa mattina. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se conoscono almeno qualche nome di qualche indice differente dal FTSE MIB, che sono gli indici, diciamo, che dove sono presenti le società a capitalizzazione inferiore, che sono quegli indici sui quali i PIR possono anche puntare, perché ci sono piccole aziende con alti potenziali di crescita e non solo. Manuel da Roma, buongiorno. Buongiorno, sono Manuel da Verona, preciso, buongiorno. Ah, Verona, non Roma. Sì, vabbè, stamattina sì. Abbiamo un po' così, un po' qualche nessun pasticcio problema. In onda, non c'è problema. Ci dica. Niente, allora tre sono gli indici principali minori, diciamo, dove le piccole e medie aziende italiane si sono quotate, sì, e si quoteranno. Allora, il primo e più importante è lo Star. Sì. Il secondo è Mid Cap e il terzo è AIM Italia. Grazie a Manuel, a cui va subito il libro che parte naturalmente da parte di Cuore Denari, noi lo ringraziamo. E parte un libro anche per Giuseppe, che ha dato la risposta giusta: l'olfatto si sviluppa nella pancia della mamma. È stato il primo ascoltatore a comporre il nostro numero verde per darle la risposta, quindi benissimo. Giuseppe, complimenti. Libri stamattina anche a profusione. Dottor Guazzi, noi abbiamo terminato la nostra puntata, ma lei è preoccupato per questa fiammata della tecnologia americana? Secondo lei sarà il sorpresone dell'estate lo scoppio della bolla high tech? statunitense? 10 secondi per una domanda difficilissima. Difficilissima, no. Chissà se è una bolla, non so se è una bolla, non sappiamo se è una bolla. Sicuramente la tecnologia ci sta cambiando completamente la vita. Ricordiamoci pure che la Apple, per fare un esempio, oltre a far parte anche di questa, di quelli che qualcuno chiamano bolla, ha anche 260 miliardi di cassa. Di per liquidità, cui, esatto. Ma insomma, vedrei le cose da un punto di vista un po' se diverso. Se scoppia la bolla, salvano no, loro. Può fare buyback, qua. Può fare tante cose. Grazie, grazie dottor Guazzi. Ciao. Per essere buona stato giornata. Con buona noi. Giornata buona a tutti. Giornata, presto.